Signore e signori, ecco a voi il circo degli orrori. Benvenuti a tutti dentro al circo degli orrori, dove non c'è nessuno perché sono tutti fuori, fuori. Sono tutti fuori. Io compreso. E ormai qui se ne vedono di tutti i colori e non ne puoi uscire perché sono tutti fuori, fuori. Sono tutti fuori. È il canto dei pagliacci di una gioventù baciata dalla sfiga, dove chi più conta getta basi su una sfida, senza lacrime e cordoglio, senza aprire il portafoglio. Minaccia di una plebe che mi unge e poi mi punge sul mio collo. Tollerò qualcosa che mi ha sempre superato, non penso più a scappare perché sono senza fiato. Siamo domatori di una gabbia con i suoi leoni, nel contesto degli attori rischio di finire dentro un circo degli orrori. Siamo tutti prigionieri di un'orchestra, se hai la testa di cambiare ti riscaldi la minestra. Ancora che con testo, nello stesso verso, prova mi domando se son destro. A nessuno in questa vita frega come son cresciuto. Il cliente la mia vita ancora esige il suo tributo. Non ho mai trovato qui la strada giusta per il mio successo, ma ogni giorno faccio a botte per trovare un compromesso. 25 la bestemmia che pronuncio in quest'inverno, 25 sono i fogli che ho strappato dal quaderno. Chi ha coscienza sporca tira il sasso pure la sua mano indietro, chi ha l'anima di ferro in grado di vedere proprio spettro dietro un vetro. Siamo come tessere del domino, cade uno quindi avanti il prossimo. Benvenuti a tutti dentro al circo degli orrori, dove non c'è nessuno perché sono tutti fuori, fuori. Sono tutti fuori. Io compreso. E ormai qui se ne vedono di tutti i colori e non ne puoi uscire perché sono tutti fuori, fuori. Sono tutti fuori. Sei in trappola bella. No, non sono uno stinco di santo, distinto di garbo, istinto, bastardo, finto, poi pianto, attingo dal fango, anch'io nella vita ho fatto bingo, ma quando? Io sono fuori con te, tu sei fuori come me, eh? Ma quello fuori chi è? Il figlio che non studia dalla colpa ai genitori, poi di punto in bianco studia come farli fuori, fuori. Confondi uomini con animali, chi per starci dentro fa salti mortali. La fame di fama per strada, gli infami, la sbarra, la lama. Là fuori tra i pagliacci non c'è pace Adams, padri senza trama, fratelli d'Italia e figli di puttana. In questo show la sorte si presenta ironica, ma vestita in nero come diabolica. Qui è l'inizio della fine, ogni 100 vetrine 10 madri assassine. Ora i leoni sono dopati, domatori, scimmiati, spettatori, esaltati dentro e fuori, tutto gratis. E puoi goderti sta commedia per tutta la vita, tanto quel biglietto tu lo paghi all'uscita. E io faccio di tutto per non arrivare prima, anzi ne resto fuori e lo spettacolo continua. Benvenuti a tutti dentro al circo degli orrori, dove non c'è nessuno perché sono tutti fuori, fuori. Sono tutti fuori. Io compreso. E ormai qui se ne vedono di tutti i colori e non ne puoi uscire perché sono tutti fuori, fuori. Sono tutti fuori. Sei in trappola bello. Se ringhio son gringo, se fingo son rinco, se sminchio poi dico ma ne valeva il rischio. Mi misco a sto circo, finisco come al Cristo in croce senza voce per far ridere Mefisto. Visto che insisto, non sempre ce la faccio, la gente guarda il tizio tipo scemo del villaggio. Pagliaccio, ostaggio di guai in cui mi caccio. Strike, non lo faccio quasi mai al primo lancio. Fuori, come un falso in bilancio, come le love story che poi sono scopate a gancio. Abbraccio, la vita è scariota, le un bacio mi scrocca e mi ritrovo col suo scraccio e la sua lingua dritta in bocca. Troppa sporca che parla e la fa lunga e tiene sempre a galla quegli stronzi che la spunta. Giunta anche qua la comitiva degli orrori, di ogni senso priva, fra per questo non ne trovi. E se penso che ci ho perso e rimessi i coglioni, per riuscire a starci dentro son dovuto andarci fuori. Dai cori a Pamplona come i tori, o come chi perdona e fa lo stesso se tu muori. Fuori per strada con un colpo di pistola, ucciso da un sorriso però inciso sulla gola. E se ora scappo ma grappo al cazzo, qui dal circo c'è chi è uscito, sì ma pazzo. Fuori, siamo tutti fuori, dicono che siamo tutti fuori, compreso te. Oh man, che c'è? Oh, anche Zava è fuori. Mettiti a posto.